Ora, come detto, iniziamo tipo la nostra parte di approfondimenti e proviamo a parlare con un compagno di Monza che ci dirà un po' cosa accadrà a Monza il 5 di novembre. Allora, pronto? Senti, ci senti? Sì, vi sento, ciao a tutti e a tutte. Ciao, benvenuto a Radio Tagadà. Allora, niente, sappiamo che appunto il 5 di novembre a Monza ci sarà un corteo, quindi ti chiedo subito com'è venuta fuori l'idea appunto di organizzare una mobilitazione in quella giornata. Ma allora, quest'estate è stata, insomma, dal Boccaccio è stata lanciata un'assemblea un po' per fare il punto sulla situazione del primo anno di occupazione di Via Timavo 12 dopo lo sgombero dell'anno scorso. E poi in realtà quell'assemblea è stata chiamata anche per parlare, insomma, di altre questioni come, insomma, il caro vita, la guerra. E niente, poi da quell'assemblea che è stata molto partecipata, che è stata la prima, insomma, ci si è riaggiornati a settembre con una nuova assemblea, in cui, insomma, hanno partecipato varie realtà del territorio, collettivi studenteschi, sindacati di base, collettivi queer, insomma, da quell'assemblea poi ce ne sono state altre, nelle settimane successive, insomma, in cui sono usciti un po' i quattro temi che porteremo in piazza sabato 5 novembre, che sono, vabbè, il caro vita, insomma, la scuola, quindi rivendicazioni studentesche, la crisi climatica e il transfemminismo queer. Ok, ti volevo chiedere appunto, durante questi passaggi, insomma, sono stati creati questi quattro punti tematici. Ti volevo chiedere se oltre appunto dell'assemblea ci sono state anche delle iniziative in vista appunto della mobilitazione, se ci sono stati altri passaggi appunto che hanno portato a questa situazione qui. Allora, guarda, a Monza per il momento no. La prima, diciamo, iniziativa su Monza, diciamo, un avvicinamento al corteo è la Critical Mass che ci sarà venerdì prossimo, il 28, che partirà alle 18 dal parcheggio, insomma, del liceo Mose Bianchi. E quella, diciamo, è la prima tappa, diciamo, monzese prima del corteo. E poi un altro invece appuntamento che abbiamo lanciato in avvicinamento al 5, domani il corteo. Insomma, GKN a Bologna, che vabbè, immagino tutti più o meno sanno di cosa sto parlando, e queste sono, diciamo, le tappe che abbiamo scelto in avvicinamento al corteo del 5, oltre, diciamo, alle assemblee pubbliche che ci sono state in queste settimane, appunto. Ok, ti volevo chiedere, siccome diciamo ci sono appunto quattro argomentazioni che poi in realtà pare che siano abbastanza slegate tra di loro, ma appunto probabilmente ci sono dei punti di interconnessione, ti volevo chiedere la tua visione, o comunque la visione che avete con i compagni e le compagne che stanno provando a organizzare il corteo, quali sono appunto questi intrecci in questi discorsi di lotte e di rivendicazione e niente, poi ad esempio dei possibili scenari futuri che potrebbero aprirsi, insomma, in divenire in seguito a questo corteo, cioè cosa vi aspettate anche da questo corteo? Ma allora, diciamo che in realtà, diciamo, i quattro temi diciamo, sono interconnessi fra di loro, perché, insomma, noi abbiamo pubblicato quattro testi per ogni tavolo. In realtà, per esempio, la questione, per esempio, del caro vita in questo momento, del caro bollette, che è una situazione molto calda in questo momento, che noi stiamo seguendo e di cui abbiamo parlato parecchio in queste settimane. In realtà viene trattata in tutte le cose, perché, per esempio, la questione climatica è anche, diciamo, c'entra con, diciamo, l'aumento dei prezzi delle materie prime, di conseguenza l'aumento dei prezzi che vediamo anche nei supermercati, l'aumento dei prezzi delle bollette, per esempio. O come la guerra, che in questo momento è sicuramente un altro argomento importante, che però anche lì sull'aumento delle bollette c'entra, anche se non è per noi solo la questione, insomma, un po' c'è questa retorica che causa la guerra, adesso stanno aumentando tutti i prezzi. In realtà, per noi, diciamo, il costo della vita era insostenibile anche prima della guerra, E questa è un po', insomma, un po' la retorica che c'è adesso, no? Di dare tutta la colpa alla guerra per questi aumenti. E quindi in realtà noi abbiamo un po' cercato di collegare, cioè con questa assemblea abbiamo un po' cercato di, diciamo, di connettere le realtà che già sul territorio portavano avanti, diciamo, delle lotte, come per esempio gli studenti, di cercare di metterli in un unico contenitore. Che è poi il corteo del 5, appunto, per cercare di portarli in piazza, perché insomma abbiamo visto che insomma le questioni sul tavolo che si potrebbero portare in questo momento sono tantissime. E ovviamente non si può portarle tutte, abbiamo scelto le quattro che sul territorio per noi aveva più senso portare, perché c'erano delle realtà che già si muovevano in quei contesti di lotta. E quindi è nata un po' così la. I tavoli sono nati un po' così, sono nati dalle discussioni, da reali, insomma, gruppi di persone che esigenze, insomma, che ci sono a Monza e in Brianza. Perfetto, va bene. Dai, allora, se vogliamo rilanciare appunto l'appuntamento per il corteo, dove sarà il concentramento sabato 5 novembre? Allora, sabato 5 novembre, Piazza Castello, ore 14:30 la partenza. Piazza Castello, per chi non è di Monza, è piazza vicinissima alla stazione, quindi è facilmente raggiungibile anche da fuori. Sì, appena fuori la stazione, no? Sì, esatto. E niente, poi appunto c'è questa Critical Mass venerdì 28. E niente, penso che le mobilitazioni sono queste. Ok, va bene, perfetto. Allora noi ti ringraziamo e magari ci risentiamo più in là anche per fare un resoconto, se avrete voglia, così ci raccontate com'è andato il corteo. E niente, noi vi salutiamo, un abbraccione, a presto. Ciao, grazie a tutti e tutte. Ci risentiamo. Ciao, grazie.